Una situazione dark. Una situazione dark. Una situazione dark. Thank you. ascoltami. Ascoltami. Che cosa cerchi? Che cosa cerchi? Paura e sesso, una situazione dark. Cosa vuoi da me? Regalami la pace. Cosa vuoi da me? Regalami la pace.